24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci, sono le 7:20 minuti, ben ritrovati. Allora, vi siete riposati? Il nostro alpino Peter Bescapè è qui in prima linea alla nostra regia, in diretta fino alle 9. Come di consueto, oggi avremo ospite, ve lo dico già, tra un'ora, il capogruppo alla Camera della Lega, Giampaolo Dozzo, l'onorevole Dozzo, per parlare insomma di questo terremoto all'interno della Lega. Si è dimesso Renzo Bossi, il trota, dal Consiglio regionale della Lombardia. Parleremo oggi anche di scuola, perché proprio la Regione Lombardia, ma è una volontà che sarebbe diffusa anche in altre regioni, vorrebbe, e vuole anzi, la chiamata diretta dei professori, la possibilità delle scuole di scegliersi i professori, i docenti, un qualcosa che per molti è anticostituzionale, va contro i concorsi pubblici, la scelta per concorsi pubblici. Invece la Regione Lombardia vuole la chiamata diretta dei docenti per le scuole pubbliche, Che ne pensate? Ne parliamo questo alle 8:30. E ora, come al solito, iniziamo da cosa? Da quello che ci propongono i quotidiani in edicola. È martedì 10 aprile, la Lega ovunque, la Lega. Più o meno questa è la notizia d'apertura per tutti i giornali. E poi anche la riforma del mercato del lavoro. Insomma, ci ritroviamo dopo la Pasqua con le stesse notizie di aperture che c'erano prima della Pasqua. Lavoro, la partita delle modifiche, così apre il Sole 24 Ore, il titolo di apertura dedicato dunque alla riforma del mercato del lavoro. E poi, come detto, Lega in tutte le salse per il Corriere della Sera. Lega, l'ora dei passi indietro. Repubblica, Lega, si dimette anche Bossi Junior. La Stampa, la resa dei conti nella Lega. Il Messaggero, si dimette il figlio di Bossi. Il Fatto Quotidiano, parlano di riforma ma non mollano un euro, è la riforma del finanziamento ai partiti. Libero, Lega, altri indagati. E poi ci sono le ironie, ovviamente, no? L'Unità, trota saltata. Questo, c'è la foto di Renzo Bossi. Il Manifesto, trota sacrificale, e c'è la foto sempre di Renzo Bossi. Per il Giornale invece, partiti straricchi, l'Italia un record europeo. Il Quotidiano Nazionale invece, fuori uno. C'è la foto di Rosi Mauro e Renzo Bossi, fuori uno perché Rosi Mauro invece pare la seconda predestinata alle dimissioni dalla vicepresidenza del Senato, e lo vedremo tra poco, ma pare che proprio questa mattina potrebbe dimettersi anche lei. Prima però qualche notizia così di taglio diverso. Era Pasqua per tutti, era Pasqua anche per il comandante Schettino, no? Ricordate il comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, e visto che era Pasqua anche per lui, è agli arresti domiciliari, dunque poteva anche tranquillamente con la sua famiglia festeggiare la Pasqua, ma il comandante Schettino, in questo nostro straordinario paese, l'Italia, ha potuto beneficiare di 3 ore di permesso premio, o di permesso senza premio, di permesso insomma. Per che cosa? Per festeggiare il pranzo di Pasqua dalla sorella. Libero titola così a pagina 16, Schettino poteva far festa a casa sua. Ma è Pasqua per tutti, tutti hanno diritto a casatiello e pastiera, e che non si negano a nessuno, neppure il comandante della Costa Concordia affondata all'isola del Giglio lo scorso 13 gennaio con 30 passeggeri morti, più 2 ancora dispersi. E così domenica a Francesco Schettino sono state concesse 3 ore di permesso dagli arresti domiciliari per potersi recare al pranzo di Pasqua a casa della sorella, lasciando per un breve lasso di tempo la sua abitazione a Meta di Sorrento. A documentare tutto questo anche le telecamere, lui è comparso con una camicia azzurra, giacca blu elettrico, pantaloni scuri, occhiali da sole. Questa la mise pasquale di Schettino, che deve rispondere, ricordiamo, di reati tra cui omicidio plurimo colposo, naufragio, abbandono di nave. E dunque, insomma, ha suscitato qualche polemica, leggevo anche su Twitter qualche polemica sulle comunità virtuali, no? Queste 3 ore di permesso a Schettino. Ma attenzione, cari ascoltatori, perché forse non è finita. Oggi, proprio oggi, si attende una decisione ben più importante nel caso Schettino. Il Secolo XIX ne parla a pagina 7. Schettino potrebbe tornare in libertà. Oggi proprio il verdetto della Cassazione. Attenzione, in libertà vuol dire la revoca dagli arresti domiciliari, nel senso che poi ci sarà il processo. Eccolo qui allora, Michele Giuntini ne parla a pagina 7. Dopo l'assaggio di libertà a Pasqua, il comandante della Costa Concordia Schettino spera in qualcosa di più di un permesso di poche ore dagli arresti domiciliari per andare a pranzo a casa della sorella. Oggi infatti la Cassazione discuterà la sua condizione ben oltre la passeggiata a meta di Sorrento. Sono fissati davanti alla Suprema Corte udienza e Camera di Consiglio su ricorsi della Procura di Grosseto e della Difesa, ricorsi contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze che confermò la decisione del GIP di Grosseto di applicare a Schettino i domiciliari, dunque annullando la misura del fermo in carcere disposta dalla Procura il 14 gennaio. Si vedranno in Cassazione, Procura e Difesa, puntano entrambi a far annullare il provvedimento del riesame, certo però la Procura punta ad annullarlo per farlo tornare in carcere, mentre la Difesa punta ad annullarlo, il provvedimento degli arresti domiciliari, per dare una libertà piena al comandante Francesco Schettino. Dunque potrebbe tornare libero, però in realtà potrebbe anche tornare in carcere. Oggi il verdetto della Cassazione sul caso Concordia Francesco Schettino. Poi mi ha colpito questa notizia di cui parlano tutti i giornali. C'è un po' carenza di notizie evidentemente, no? Dopo Pasqua tutti si sono fiondati su questa notizia. Oh, intanto una domanda, cosa pensereste mai se un giorno vi dicessero: guardate che siete papà di 600 bambini? Cioè avete 600 figli naturali. E così, Mister Fertilità, padre di 600 figli. È la scoperta fatta da due figli naturali che si sono ritrovati inconsapevolmente, entrambi figli di Bertolt Wiesner, biologo austriaco che negli anni 40 del secolo scorso a Londra aveva creato una clinica per la fertilità nella Barton Clinic. Nacquero 1500 bimbi e vabbè, tutto normale fin qui. Ma il problema è che di questi 1500 ben 600 erano bimbi naturali, per una semplice ragione: mancavano i donatori e dunque il biologo usò il suo stesso sperma. E questo vuol dire che è padre di 600 figli. Ma non so, ha colpito un po' tutti questa notizia. Londra, i 600 figli del pioniere della fertilità. Così a pagina 18, il dottor Wiesner, donatore di seme nella sua clinica. Mi ha colpito di più, forse perché è una storia vicina ai giorni nostri, più vicina ai giorni nostri, più tangibile, più reale, quella di un olandese, un signore olandese, si chiama Ed Houben. La sua storia è raccontata dalla Repubblica, pagina 20, è simile a quella che vi ho appena raccontato. Io, inseminatore seriale per generosità, ho fatto diventare madri 83 donne. È una storia un po' surreale, incredibile, qualcuno può dire anche moralmente criticabile, di Ed Houben, pacioso olandese di 42 anni, fotografato con dei calzini orribili alla olandese su un sofà, lo trovate su Repubblica, appunto pancia prominente. C'è chi dice: fermatelo, può causare un disastro genetico. Cosa fa questo signore? Risponde agli annunci di donne, un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, donne che vogliono avere un figlio, ma lo vogliono avere da sole, senza complicazioni, nel senso senza avere un padre per le mani, evidentemente. E allora vanno sul sito www.edhoben.eu. Se volete sapere come si scrive, perché ci sono delle H, delle O, delle U, andate a vedere su Repubblica, e trovano lui, l'inseminatore seriale. Lui prende parte, si fa pagare le spese di viaggio, ovviamente incontra queste donne, ha rapporti sessuali con queste donne, e poi cosa succede? Che ha 82 figli sparsi in tutto il mondo. Ma lui dice: ma li conosco tutti per nome, eh? Quando le mamme mi dicono il nome io mi segno tutte le date, mando al giorno del compleanno dei regali, dei pensieri. e al settimanale Der Spiegel ha narrato la sua storia. Io prendo, parto, voglio solo le spese di viaggio, eccetera. Sono amoroso, sono premuroso, sono dolce e ho 82 figli. L'83esimo sta per nascere. Fa l'amore gratis con ragazze che desiderano la maternità. Questa è la storia di Ed Hoben su Repubblica, pagina 20. Dicevamo allora che le notizie principali sui giornali, beh, intanto è la Lega in tutte le salse, ci sono quotidiani che dedicano 10, 12, si spingono fino a 14 delle prime pagine al terremoto nella Lega. Beh, la notizia di ieri certo sono le dimissioni di Renzo Bossi, il Trota, si è dimesso dal Consiglio regionale della Lombardia, straordinario tra l'altro Umberto Bossi, il padre, che ha detto da 2 mesi era stanco di stare in regione. La verità ovviamente è un'altra. Tra l'altro Renzo Bossi ha consegnato a Brescia Oggi, il quotidiano Brescia Oggi, una lettera che oggi viene pubblicata anche sul giornale, a pagina 3. Ritorno tra i ranghi per evitare che a pagare le conseguenze dell'attacco incrociato sia l'intero movimento e soprattutto mio padre. Ho la tranquillità di chi sa che non ha mai fatto nulla di quello che è stato riportato dai media. E poi riguarda ancora a suo papà, da lui ho sempre preso esempio nella vita e in politica, cercando di mutuare nel quotidiano i valori con cui ci ha sempre cresciuti, il rispetto, la morale e la coerenza. Lui si è dimesso da segretario della Lega Nord per lasciare la giusta libertà di difesa. Io mi dimetto da consigliere regionale per evitare di prestare il fianco a nuovi ed infondati attacchi. Le accuse piovutemi addosso negli ultimi giorni mi hanno fatto male, senza però mai turbare la mia serenità. Le poltrone lasciamole a chi urla al lupo, ma forse è talmente miope da non vedere oltre i propri interessi. Un po' enigmatica, molto enigmatica questa frase di Renzo Bossi, che comunque si è dimesso dal Consiglio regionale della Lombardia. Oggi la Padania titola così: la rabbia e l'orgoglio, rivoluzione leghista. Renzo Bossi si dimette dall'incarico di consigliere in Regione Lombardia, do il buon esempio. Però vedete cosa mette in prima pagina la Padania, l'organo della Lega. Calderoli, lo tsunami è passato, ora dobbiamo ricostruire. Sarebbe giusto se Rosi Mauro lasciasse la vicepresidenza del Senato. Vabbè. Questo messo in titolo di prima pagina, nel sommario di prima pagina della Padania, è un po' più che una sentenza. E difatti pare che la prossima a dimettersi almeno dalla vicepresidenza del Senato debba essere Rosi Mauro. Ma andiamo con ordine. Intanto la questione Renzo Bossi. Secondo Paolo Berizzi, che racconta retroscena su Repubblica, pagina 3, questo sarebbe stato il senso del faccia a faccia tra Umberto Bossi, quindi Bossi padre, e Renzo Bossi, Bossi figlio. Ti ho dato un'occasione, l'hai buttata nel cesso, hai fatto casino, le macchine, gli amici balordi, la storia dei soldi. Io ti ho sempre difeso, ma ora basta, la faccia adesso ce la metti tu. Vai e dimettiti. Così a Gemonio sarebbe andato in scena il faccia a faccia più doloroso, più duro, di Umberto Bossi, che già 3 giorni fa aveva detto chi sbaglia paga qualunque sia il cognome che porta. Raccontano appunto di un confronto acceso anche tra Umberto Bossi e la moglie, Manuela, che aveva cercato e ha cercato fino all'ultimo di far prevalere le ragioni del cuore, ma il marito non ha mollato e rovesciato dal contrappasso del nepotismo. Ora, il boss leghista non può esporsi a un cappotto, sarebbe un pessimo epilogo, scrive Berizzi, ed eccolo dunque faccia a faccia col figlio Renzo. Hai combinato troppi casini, ti devi dimettere, altrimenti mi mangiano vivo e viene giù tutto. Mettici la faccia, tu domani annunci le dimissioni. E domani, cioè poi era ieri, questo è un racconto di 2 giorni fa, sarebbe venuto 2 giorni fa, ecco che Renzo Bossi: mi dimetto da consigliere senza che me lo abbia chiesto nessuno. È che le accuse si accumulano una dopo l'altra. L'ultima è quella affidata al settimanale Oggi dall'autista di Renzo Bossi, che ha anche filmato, ha fatto dei filmati all'interno della macchina di una dazione di denaro, cioè fa vedere lui che gli passa del contante. E come racconta Angelo Mincuzzi sul Sole 24 Ore, pagina 11, le accuse dell'autista: ero praticamente il bancomat di Renzo Bossi. Ma ci sono i fotogrammi un po' ovunque di questo passaggio di denaro. Gian Antonio Stella fa anche due pagine su, come dire, possiamo dirlo, una troteide, nel senso che racconta un po' tutta la parabola di Renzo Bossi a partire dalla prima pagina del Corriere, poi pagina 8 e 9. L'autista era il suo bancomat, fenomenologia del trota, così gli passavo i soldi. E questo autista che dice praticamente: non ce la facevo più a passare da colui che ero l'unico disonesto, continuava a dargli soldi, continuava a passargli del denaro. E si chiama Marmello, Alessandro Marmello, il suo autista: non ce la faccio più, non voglio continuare a passare soldi al figlio di Bossi in questo modo, è denaro contante che ritiro dalle casse della Lega a mio nome sotto la mia responsabilità. Lui incassa e non fa una piega, se lo mette in tasca come fosse la cosa più naturale del mondo. E che cosa paga con questi soldi? Marmello sostiene molti per spese personali. Poteva essere la farmacia, i ristoranti, la benzina per la sua auto, spese varie. Insomma, quando avevo finito la scorta di denaro, andavo in cassa, firmavo e ritiravo. Mi è capitato anche di dover fare il pieno di benzina pure per la sua auto privata. Insomma, piovono accuse e piove anche la rabbia. Oggi a Bergamo ci sarà questa sera la manifestazione dei leghisti. Cos'è l'orgoglio leghista? Tra l'altro la stessa Padania lo mette in prima pagina, con tanto risalto. Stasera la capitale della Lega, Bergamo Alta. E secondo molti stasera ci sarà da parte di molti militanti la volontà di una sorta di proclamazione vox populi di Roberto Maroni come possibile leader e successore di Umberto Bossi a capo della Lega. Quando si arriverà questa sera, qualcuno giura che Rosi Mauro non sarà più, nel frattempo, vicepresidente del Senato, perché appunto le polemiche su di lei, insieme a Renzo Bossi che si è dimesso, sono numerose, arrivano da più parti. Lo stesso Calderoli ha detto: ora dovrebbe dimettersi. Lo chiedevamo anche a Giampaolo Dozzo, onorevole Dozzo, che è capogruppo della Lega alla Camera, ospite nostro alle 8:20. E racconta Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 4, la nera, ormai è soprannominata così, la nera, perché nelle intercettazioni era definita così, Rosi Mauro. La nera prova a resistere, poi telefona il capo e lei dice: d'accordo, getto la spugna. Cioè, nel retroscena di Repubblica già viene data per certa la lettera di dimissioni che verrà presentata questa mattina. Da cosa si dimette Rosi Mauro, secondo questa indiscrezione? Dalla vicepresidenza del Senato, ma non intende dimettersi dal Senato stesso, cioè rimango al Senato ma non alla vicepresidenza. Pressioni su Rosi Mauro perché lasci il posto al Senato, Calderoli, un gesto opportuno anche sul Corriere della Sera, Matteo Cremonesi, che racconta tutte le vicissitudini all'interno della Lega. Racconta che Rosi Mauro, definita la nera ma anche la badante, potrebbe davvero fare questo passo indietro. Tra l'altro, a proposito di passo indietro, il Corriere mette a pagina 5 appunto Renzo Bossi si è dimesso e ci sono i malumori di Stefano Boeri, che è del Partito Democratico, è un assessore milanese del Comune di Milano alla Cultura, che su Facebook ha messo un post che suona più o meno così: non facciamoci dare lezioni dal trota, ricordiamo che abbiamo un indagato, noi del Partito Democratico, vale a dire Filippo Penati, che non si è dimesso, i suoi colleghi indagati, a partire da Filippo Penati e Davide Boni, un altro della Lega, ci riflettano bene. Le dimissioni da consigliere non sono un atto dovuto, ma sarebbero certo un gesto nobile, sicuramente apprezzato dagli elettori lombardi. Mi sbaglio? Questo è il post di Stefano Boeri, che insomma ha fatto un pochino discutere all'interno del Partito Democratico, per l'appunto, perché Boeri chiede le dimissioni di Penati al grido di non facciamoci dare lezioni dal trota. È perché qualcuno effettivamente la pone così. In fondo Renzo Bossi, certo travolto da polemiche e pare anche molto più evidenti, travolto anche dai malumori della base leghista, lui il gesto l'ha fatto, si è dimesso. Mentre guardate, io non lo so come voi volete vedere la corsa che c'è dei partiti a questo punto a dire entro 3 giorni dobbiamo rifare le leggi per il finanziamento ai partiti. Sembra un po' una situazione da dire, beh, qua, attenzione, cari segretari di partiti, spuntano, si saranno visti negli occhi Alfano, Bersani, Casini, A, B, C, avranno detto, qua spuntano veramente i forconi se non facciamo qualcosa. E allora adesso, improvvisamente, dopo che per anni i rimborsi ai partiti sono arrivati copiosi, se nonostante un finanziamento li avesse, un referendum li avesse aboliti del tutto, poi sono stati rimessi, poi sono aumentati del 1100% negli ultimi anni, come è stato certificato da varie inchieste giornalistiche. Adesso, siccome viene giù tutto dal punto di vista della Lega e c'è pochi giorni fa c'era stato il caso della Margherita, allora adesso i partiti in 3 giorni hanno detto, in 3 giorni, domani presenteremo le modifiche, le leggi per modificare il finanziamento ai partiti. Sarà, come dire, una sorta di, non voglio usare questa parola ma uso, di truffa, cioè o di gattopardesca decisione di per cambiare qualcosa per non cambiare in realtà niente. Allora, dopo lo scandalo Lega, dopo lo scandalo ex Margherita nel senso che è un partito che non c'è più ma continua a prendere i soldi, ora i partiti dicono acceleriamo, bisogna cambiare il finanziamento ai partiti. Ripeto, la sensazione, per esempio, leggo il Corriere della Sera che da qualche giorno, ed è arrivato a più 4 oggi il conteggio, questa sorta di, non si può dire countdown, ma perché è un conteggio a salire, più 4 giorni dall'impegno dei presidenti di Camera per la riforma del finanziamento ai partiti. Se sono passati 4 giorni, il Corriere intende tenere evidentemente la conta di quanti giorni passeranno. E anche il Corriere della Sera, al di là dei buoni propositi, fa un editoriale con Antonio Polito, il cui titolo è questo: arrivano i rimborsi da qui a quest'estate di altri 100 milioni di euro ai partiti, tutto previsto dalla legge, tutto legale. Ebbene, scrive Polito, sarebbe davvero paradossale se mentre promettono di cambiare la legge i partiti intascassero a luglio l'ultima tranche di soldi pubblici di questa legislatura, 100 milioni tondi tondi. Già da oggi, dunque, dovrebbero annunciare la sospensione di quel versamento, il futuro dipenderà dal varo di una nuova normativa. 100 milioni non sono molti, scrive Polito, nel mare del fabbisogno dello Stato, però se si pensa alla difficoltà di trovare la copertura finanziaria per gli esodati o per il nuovo sussidio di disoccupazione previsto dalla riforma, si capisce che di questi tempi anche 100 milioni sono preziosi. Si potrebbe lasciare ai partiti la scelta sull'uso sociale cui destinarli. Per tirare avanti nel frattempo, essi possono comunque contare sugli ingenti risparmi messi da parte in questi anni grazie al generosissimo sistema dei cosiddetti rimborsi spese. Cioè la sensazione di molti giornali, ma vado anche sul giornale, Vittorio Feltri fa un editoriale a dire questi partiti straricchi e senza vergogna, c'è un ulteriore dato sconcertante, entro l'estate i signori del palazzo, che poi si stupiscono perché monta l'antipolitica, incasseranno altri 200 milioni di euro. Vabbè, qua adesso poi dal Corriere al Giornale sono già aumentati di 100 milioni, insomma almeno mettetevi d'accordo su quanti ne andranno i partiti. Comunque Vittorio Feltri giura che siano 200 milioni, Polito 100. E Vittorio Feltri scrive così, tanto per gradire, 200 milioni, qualcuno provvisto di un minimo senso del pudore si è accorto che non esiste ragione al mondo per cui una simile montagna di denaro venga elargita senza che vi sia l'obbligo di rendicontazione da parte di chi la percepisce. Sta di fatto che Polito invita i partiti, invece di cambiare la legge, o meglio cambiate la legge, nel frattempo rinunciate, date questo segnale, rinunciate con 3 righe di accordo ai soldi che vi pioveranno nelle casse da qui a luglio, ultima tranche per questa legislatura. Il segretario del PDL Alfano, nell'annunciare dobbiamo fare in fretta, in un'intervista al Corriere della Sera, Paola Di Caro, dobbiamo fare in fretta per il finanziamento ai partiti, dice la sua di proposta ed è questa, una forma di finanziamento ai partiti attraverso meccanismi come il 5 per 1000. Siamo favorevoli a questo, ci stiamo lavorando, ma come ho detto nei giorni scorsi dobbiamo fare presto, prestissimo e bene. Sta di fatto che poi uno legge sul giornale a pagina 6 Paolo Bracalini, questa speciale classifica nella quale campeggia l'Italia, i rimborsi elettorali. L'Italia sprecona, Londra, per esempio, quindi la Gran Bretagna, spende 25 volte di meno per i partiti. Perché è vero, tutti dicono, ma in Europa è così, tutti i sistemi democratici hanno il finanziamento ai partiti. Vero, verissimo. Però intanto negli altri paesi dove è stato fatto, se viene fatto un referendum abrogativo, non escono dalla porta e rientrano dalla finestra, dà l'idea un po' di ingannare i cittadini. In secondo luogo, in questa classifica, la spesa annuale in Inghilterra è di 12 milioni, tanto per fare un esempio, 12 milioni di euro, equivalenti sterline, da noi 289 milioni di euro. Ai partiti. Ecco, questa differenza, dunque, c'è il finanziamento anche in Inghilterra di 12 milioni, da noi di 289 milioni l'anno. E come dire, c'è riforma del mercato del lavoro, ma sono in rapida conclusione, c'è un Monti che è all'estero, prima in Israele, ora in Egitto, tornerà poi oggi, dice il mio consenso è sceso poco e la riforma del lavoro si farà. È una certezza, è intoccabile. Solo uno spazio per concludere, è una proposta di legge del ministro Riccardi, ne parla oggi Repubblica in prima pagina, riguarda milioni di italiani, riguarda i congedi parentali. L'idea, racconta Maria Novella De Luca in prima pagina di Repubblica, poi a pagina di 21, è cambiare la legge sui congedi parentali che finora sono dati o al padre o alla madre fino ai primi 8 anni del bambino, allo scadere degli 8 anni sia che se ne sia usufruito. Sia che non se ne sia usufruito, il diritto decade. Il testo del ministro Riccardi propone di estendere fino ai 18 anni dei figli la possibilità di utilizzare il congedo parentale, questo per dar modo ai genitori anche adottivi di seguire i figli in adolescenza. Di più, il testo prevede anche, ed è questa un'altra grande novità, l'idea di dare ai nonni, in alternativa ai genitori, la possibilità di usufruire del congedo parentale. Congedi ai genitori fino ai 18 anni del figlio e anche i nonni lavoratori avranno i permessi. Questa è la decisione del ministro Riccardi, che diventerà forse presto legge. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:20. Allora, oggi qualsiasi quotidiano, i primi 10-12 pagine sono dedicate alla vicenda Lega ancora. Saluto il capogruppo della Lega Nord alla Camera, Giampaolo Dozzo. Onorevole Dozzo, buongiorno, benvenuto, buongiorno a lei. Ben ritrovato. Allora, intanto le faccio qualche domanda diretta. Renzo Bossi ha fatto bene a dimettersi, secondo lei? Ha fatto bene sì a dimettersi, ha preso atto della situazione e ha posto le mie dimissioni, quindi ha fatto un atto dovuto. Un atto dovuto. Tutti chiedono e tutti si aspettano, secondo Repubblica addirittura questa mattina potrebbero arrivare le dimissioni anche di Rosi Mauro dalla vicepresidenza del Senato, come ha auspicato anche uno dei tre triumviri, no? Calderoli. Anche Rosi Mauro dovrebbe dimettersi, secondo lei? Penso che ognuno deve prendere coscienza della situazione per bene il movimento, deve compiere i gesti che si sente di fare, quindi io penso che se Rosi Mauro ha in mente il bene del movimento, anche lei deve dare un segnale. E quindi dovrebbe dimettersi. Ma dimettersi vuol dire dalla vicepresidenza del Senato o proprio dimettersi dal Senato? Perché poi qua è anche un po' un giallo. Ognuno ha la propria coscienza, quindi in base a quello che ritiene di fare deve farlo. Deve farlo. Comunque un passo indietro secondo lei è auspicabile, di qualche tipo, insomma, visto? Innanzitutto occorre dire che appunto data la questione, data le situazioni in cui ci troviamo, penso che alcuni attori devono fare questi passi indietro. Senta, ma che effetto le fa vedere dipinta la Lega come almeno dalle intercettazioni, come un partito in mano a un manipolo di persone che si rubavano i soldi? Questo diciamo la sintesi che molta gente si può fare leggendo quello che si legge sull'inchiesta. Sì, la sintesi L'ipotesi può essere questa, però di fatto la Lega non è questo. La Lega è composta da centinaia di migliaia di militanti, di persone, amministratori, parlamentari che fanno ogni giorno il proprio dovere. La Lega è un movimento nato tanti anni fa e con i pregi ma anche con i propri difetti, e se qualcuno, come diceva giustamente Umberto Bossi, è sbagliato, deve pagare. Noi siamo forse l'unico partito, che un movimento, scusate, che nel giro di brevissimo tempo abbiamo fatto, preso le nostre considerazioni e alcuni dei nostri componenti hanno fatto dei gesti molto importanti, quindi a cominciare da Umberto Bossi. Quindi al di là delle paginate dei giornali, che secondo me sono frutto non solo delle questioni giustamente che si vogliono portare a risalto, che anche noi vogliamo capire fino in fondo, ma che sono frutto anche di una, poi, di qualcosa che va oltre, dato che la Lega fa sempre paura a tutti quanti. Però la parola complotto, che era comparsa nei primi giorni in bocca a qualcuno, lei si la sentirebbe di ripeterla? Oppure... Io non ho mai parlato di complotto o quant'altro. Io dico solamente che comunque la Lega disturba, ha sempre disturbato, non vedo perché non dovrebbe disturbare nel futuro. Penso che sia un'affermazione che può starci in questo contesto. Vabbè, politicamente sì, uno può dire, però da qui a pensare conseguenzialmente che qualcuno voglia farla fuori, è qui per no, questo. Io non parlo naturalmente, io sono convinto che anche le altre forze politiche, non parlo naturalmente dell'amministratura fa il proprio dovere, ma anche le altre forze politiche, se la Lega scomparisse, ne trarrebbero vantaggio, è indubbio questo. Senta, l'altra domanda che pongono molti, anche militanti, è questa: ma è verosimile pensare che Umberto Bossi, cioè il fondatore della Lega, davvero non sapesse nulla di quello che è emerso dai giornali, cioè soldi utilizzati, un banco, partito usato come un bancomat per i figli, la moglie? Guardi, io conosco Umberto Bossi da tanto tempo, quando ancora... Umberto Bossi, che io milito nel movimento da 30 anni, dal 1982, 2012 sono 30 anni, quindi lo conosco molto bene. Io so per certo che Umberto Bossi non è mai stato attaccato ai soldi, questo lo do per certo, non si è mai interessato del denaro, e basta vederlo anche come andava, mi scusi, vestito. E quindi, la famosa canottiera, la canottiera di Bossi, l'orgoglio della canottiera di Bossi. No, non solo la canottiera, ma anche come andava vestito. Vabbè, lasciamo stare. E quindi so per certo che lui i soldi proprio non gli sono mai portati a nulla. Qualcuno l'ha fregato. Il problema è che qualcuno probabilmente è qualcuno di vicinissimo a lui, forse all'interno della stessa famiglia, no? Saranno chi sta indagando adesso in questo momento a cercare certi fatti. Noi come Consiglio federale innanzitutto abbiamo detto vogliamo vedere bene i conti, abbiamo dato delega all'onorevole Stefano Stefani di acquisire tutti i dati e di portarli a una società di revisione di bilanci. Penso che oggi stesso sarà da questa società, e questa società certificherà il bilancio, vedrà e ci dirà esattamente come stanno i conti. Che questa è una cosa un po' incredibile. In tutti i partiti c'è una persona o due persone che tengono in mano la cassa e non fanno vedere niente a nessuno. Anche alla Lega era così, di fatto. Cioè, voi dite, lo stesso Castelli ha detto: ho chiesto i conti a Belsito, l'ex tesoriere, ma non me li faceva vedere. Ma com'è possibile all'interno di un partito dove si gestiscono milioni di euro pubblici? Perché generalmente si guarda le questioni politiche e poi le questioni finanziarie purtroppo sono di solito sono un po' marginali, magari poi queste situazioni marginali si nascondono poi qualcosa che di indebito e di non voluto. Senta, intanto stasera a Bergamo c'è la serata dell'orgoglio padano, dell'orgoglio leghista. Per i giornali sarà invece un modo per in qualche modo eleggere da parte del movimento Maroni alla guida della futura Lega. Secondo lei è uno scenario possibile, cioè Maroni dovrebbe essere il leader della nuova Lega e Bossi, la fase, l'era Bossi è tramontata? Questa sera a Bergamo ci sarà una serata appunto dell'orgoglio leghista, di vedere, di far capire che non siamo proprio morti, come ha fatto l'epitafio che pochi minuti fa ha fatto la sua collega Fiorito nei nostri confronti. Non siamo morti, siamo un movimento ancora vivo, speriamo che i cittadini capiscano la nostra situazione e che ci diano ancora la loro fiducia, e questa è la nostra speranza. Ma al di là di tutto questo, questa sera appunto c'è una serata dell'orgoglio leghista, di essere leghista. Io sono orgoglioso di essere leghista, non mi nascondo di quello che ho fatto e di quello che presumibilmente farò. Però la Lega ora deve puntare, deve pensare al futuro, no? All'immediato futuro. Ci sarà il congresso, credo, dopo l'estate. Ci sono già. Noi abbiamo uno statuto dove appunto per eleggere i segretari sia nazionali e i congressi, per esempio nazionali, dovranno tenersi entro il 20 giugno di quest'anno. Avevamo già deciso, quindi saranno i congressi lombardi, i congressi veneti, quello piemontese c'è già stato, e poi ci sarà il congresso federale che appunto si è deciso di farlo in autunno, sì. Dato anche tutte le altre tempi. Ma secondo lei è verosimile che lo stesso Bossi possa ricandidarsi, oppure a questo punto bisogna svoltare, bisogna cambiare pagina? Ma io dico che ognuno in regola con lo statuto e con l'anzianità per essere candidato, sì, certo, si a può segretario candidare. Federale si può candidare, questa è la democrazia di un movimento, quindi saremo a vedere chi poi saranno i candidati. Lei come auspicio, non ha un auspicio personale, lei la definiscono un maroniano di ferro? Mi scusi, è una definizione sbagliatissima. Io sono Giampaolo Dozzo, leghista, appunto, ho sempre detto, e 30 anni militante. Però questa storia è tutta un'invenzione dei giornali, maroniani, il cerchio magico. Mi scusi, ci tengo in maniera particolare, non è che adesso uno sia bossiano, un maroniano, un caldaroliano, un dozziano. Io l'ho sempre detto pubblicamente, dappertutto, lo sanno benissimo, che io sono Giampaolo Dozzo, appunto, leghista, 30 anni di militanza, mi permettono di dire questo, capito? Però, ripeto, sono un'invenzione dei giornali, le correnti. Lo stesso Bossi ha detto Maroni non è un Giuda, ma si è fatto una corrente, voglio dire. Naturalmente c'è chi parteggia per Maroni, chi parteggia per un'altra persona, no? Questo è indubbio che ci sono, se vogliamo chiamarle correnti, se vogliamo chiamare così, prese di posizioni a favore di una o dell'altra persona. Perfetto. E allora le chiedo, le chiedo questo, Giampaolo Dozzo, leghista, da 30 anni, tra un anno chi vorrebbe a capo della Lega? Così, tra un anno. Come auspicio allora, suo personale, come previsione? Allora, io vorrei una persona che abbia a cuore il movimento, che abbia una fede, che abbia anche una militanza nel movimento e che sappia quando andare avanti il movimento dal punto di vista politico. Io vorrei il nome e cognome, poi quello che sarà e chi incarna sarà chi volontà, incarna tutto scusi, questo mi scusi, no. Sarà la volontà e sarà il voto dei delegati insomma non me lo dice del no. Ma lei avrà un desiderio suo? No, non me lo vuol dire. Guardi, io sono cioè c'è una persona che incarna più degli altri questo? Sono talmente democratico che ne ho visto di cotte di crudo del movimento, ho visto gente uscire, tornare, andare, sbattere alla porta, ho visto gente che magari nel 94 faceva le radunate quando è il momento di lasciare il governo Berlusconi, fare incontri perché non voleva andare via dal governo Berlusconi, ho visto gente che nel 98 se n'è andata via dal nostro movimento per scindere e poi sono ritornati. Come ripeto, 30 anni di militanza sono tanti. Ovviamente sarò anche vecchio. Chi vivrà vedrà. Cos'è che ha fatto la nostra Elisabetta Fiorito? L'epitafio? No, ma ha fatto un servizio. Ha fatto l'epitafio della Lega, io spero non sia così, ma la capisco, tantissimi giornalisti in questo momento stanno godendo. Prendo la difesa non d'ufficio della collega Elisabetta Fiorito. Forse ricorsi storici. Però onorevole Dozzo, guarda, ha fatto un un servizio giornalistico non sta godendo per niente. Io ho detto che ha fatto un epitafio, non penso. Sì, certo, ma lei dice che molti colleghi stanno godendo, non lo so, non è il caso di Elisabetta Fiorito sul che ha fatto il suo servizio. Io ho detto solamente che la signora Fiorito ha fatto un epitafio. Va bene. Probabilmente si sbaglierà. La ringrazio, onorevole Dozzo. Spero almeno. Certo. Grazie per essere stato con noi. All'onorevole Giampaolo Dozzo, capogruppo della Lega Nord alla Camera, le 8:33 minuti. Allora ci fermiamo per la pubblicità e il meteo e poi parliamo di scuola e di reclutamento diretto dei docenti, perché in questa direzione va la Regione Lombardia, vorrebbero andare altre regioni. Qualcuno ha tuonato tutto ciò è incostituzionale. La Regione Lombardia vorrebbe fare delle scelte nell'autonomia scolastica per scegliere i docenti, ovviamente nell'ottica di dire scegliamo i docenti che sposano il nostro credo formativo, vogliamo scegliere i docenti migliori. Tutto questo ha creato un putiferio all'interno del mondo della scuola per chi dice è una decisione incostituzionale. 24 mattino. Siamo qua allora alle 8:38 minuti, vogliamo parlare di scuola e di quello che ha deciso la Regione Lombardia. La Regione Lombardia ha una legge regionale, in pratica ha deciso in accordo col Ministero in via sperimentale per 3 anni di fare quella che viene richiamata il reclutamento personale dei docenti o comunque la chiamata diretta dei docenti. La legge regionale recita così, al di là del burocratese: al fine di realizzare l'incrocio diretto tra domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti a titolo sperimentale per 3 anni, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali. Insomma, il sistema dei concorsi nazionali per docenti funziona poco, vogliamo la possibilità di chiedere il reclutamento dei docenti diretto da parte delle scuole. Ne parliamo con l'assessore all'istruzione della Regione Lombardia, Valentina Prea. Assessore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Saluto anche Francesca Puglisi, onorevole, responsabile nazionale scuola del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, un Partito non Democratico. Sono onorevole, non è onorevole, sono mi perdono, un membro della segreteria nazionale. Che ha, Puglisi che ha criticato, Partito Democratico ha criticato come incostituzionale questa norma. Intanto, Assessore Aprea, perché la Regione Lombardia vuole una chiamata diretta dei docenti? Come ha detto molto bene lei, si tratta innanzitutto di una sperimentazione, fra l'altro circoscritta alla selezione di supplenti annuali aventi diritto, quindi quei docenti che sono nelle graduatorie che ogni anno vengono utilizzati per ricoprire posti vacanti nelle scuole. E come sa bene anche l'amica Puglisi, molti supplenti annuali che lavorano bene e molto bene nelle scuole, collaborando in modo anche sostanziale e fattivo all'attuazione del progetto educativo, si ritrovano poi spostati per motivi burocratici magari l'anno successivo in altre scuole. In particolare gli insegnanti di sostegno subiscono questo trattamento quando sono supplenti annuali. Quindi voi allora, vorreste fermare questa sorta di esodo, cioè certo, con dei concorsi? No, si tratta, guardi, più che fermare l'esodo, che non è evidentemente un esodo, è un sistema burocratico che certamente rispetta regole burocratiche e quindi punteggi e quindi certamente diritti consolidati, ma che cozza, possiamo dire, contrasta in maniera evidente con l'autonomia delle scuole, con la responsabilità delle scuole di rendere un servizio altamente qualitativo ed efficace. Però, in particolare in Lombardia, mi lasci dire questo, noi abbiamo delle percentuali molto elevate di supplenti annuali e in alcune realtà si arriva fino al 15-20% di supplenti annuali in una scuola. In queste situazioni è impossibile garantire una qualità diffusa e garantire quel patto che sempre deve stare alla base tra scuola, famiglia e studenti. Per cui, per tutte queste ragioni, più che alle singole scuole, noi pensiamo a reti di scuole che possano valutare rispetto agli aventi diritti quelli sono i docenti che meglio possono dare, anche per una gratificazione personale, di più in una scuola piuttosto che Le assunzioni dirette o le chiamate dirette, però lei le ha sentiti sia i sindacati tuonare, la CGIL scuola, direi tutto incostituzionale. In Lombardia il livello nazionale è una questione. In Lombardia, tra l'altro, io sono arrivata che la legge era già stata strutturata, predisposta, io ho soltanto avuto l'onore di votarla in giunta, ma in realtà il mio predecessore, l'assessore Rossoni, e la giunta, il presidente Formigoni, avevano lavorato per mesi e mesi, tra l'altro anche con consultazioni locali, regionali, quindi con sindacati, con rappresentanze di sindacati dirigenti della regione, e c'è molta attesa e molta aspettativa, perché non stravolge né l'ordinamento nazionale, tanto vero che noi parliamo di accordo di paletti da prevedere con il Ministero, e né tantomeno, per carità, i diritti acquisiti dei supplenti annuali. Lei dice molta attesa, molta aspettativa, ci sono anche molte critiche, per questo vorrei andare da Francesca Puglisi. Ecco, le critiche il Partito Democratico le ha fatte, intanto le vorrei fare due domande. La critica che lei fa maggiore a questa legge regionale della Regione Lombardia, e poi vorrei parlare anche del caso di Trento, dove mi risulta che l'assessore all'istruzione del Partito Democratico, del suo stesso partito, voleva percorrere la stessa strada più o meno della Regione Lombardia ed è stata fermata dal Partito Nazionale a dire no, così non si fa. Quali sono le critiche che fate a questa scelta del reclutamento a chiamata diretta? Sono senz'altro critiche di incostituzionalità, perché la Costituzione, il dettato costituzionale, prevede che sia l'educazione, l'istruzione a garantire l'unità del paese. E lo faccio portando un esempio: la differenza profonda tra l'articolo 32 che riguarda la sanità e l'articolo 33 e 34 che riguarda la scuola. Mentre per la sanità si potrebbe arrivare all'estremo di ospedali privati garantendo le cure gratuite agli indigenti attraverso voucher, solo per la scuola la Costituzione prevede, per garantire il pluralismo e la libertà di insegnamento, l'istituzione di scuole statali. Il reclutamento non è materia regionale, ma è materia statale, e questo è assolutamente fondamentale. Il fatto che sia previsto da una sperimentazione non, come dire, allevia la gravità della cosa, perché un'incostituzionalità a tempo non è meno grave di un'incostituzionalità permanente. Ma ha sentito l'assessore Aprea dire: noi vogliamo anche evitare che per questa burocrazia ci siano al 15% di personale che ogni anno cambia. Siamo perfettamente consapevoli che nelle scuole italiane stanno lavorando 90.000 insegnanti con contratti annuali su posti vacanti. Il Partito Democratico ha proposto più volte allo scorso governo, di cui Valentina Aprea era un esponente della maggioranza, presidente della commissione, e abbiamo fatto altrettanto con il ministro Profumo, chiediamo la stabilizzazione di questi 90.000 docenti che stanno lavorando su posti vacanti. Peraltro non costa un euro in più allo Stato, perché a questi insegnanti che vengono licenziati ad agosto per essere riassunti a settembre, vengono pagati le ferie non godute e l'indennità. Cioè, lei vorrebbe più insegnanti di ruolo, più insegnanti di ruolo. Esattamente, basterebbe garantire la stabilità a tutti questi insegnanti che stanno lavorando con contratti annuali, che non costa di più allo Stato, garantirebbe continuità didattica e senz'altro una migliore qualità di vita per i docenti. Guardi, io non lo so, se non ho in mano il controllo dei conti della scuola, adesso tra l'altro ci fermiamo per le informazioni sul traffico, ma da qui voglio ripartire, perché insomma sento già Oscar Giannino tuonare sul tema spesa pubblica, l'idea di non costa di più, non costa di più, è dimostrato, per cui non c'è poco da tuonare, non costa di più, anzi lo Stato risparmierebbe qualcosa. Ma allora ripartiremo da qui tra un minuto. Vorrò chiedere anche all'assessore Aprea questo. Beh, insomma, io avevo sentore che in passato la questione della chiamata diretta era molto legata anche a quelle battaglie che faceva la Lega, no? Insegnanti veneti in Veneto, lombardi in Lombardia, piemontesi in Piemonte. Per carità, adesso i leghisti sono in altre faccende affaccendati, ma vorrei capire davvero se c'è anche questo rischio o questa linea dietro questa decisione. Tra poco. Allora, parliamo del reclutamento diretto della Regione Lombardia. Assessore Aprea, non so se vuole partire dal concetto, la stabilizzazione di 90.000 precari che dice Francesca Puglisi non costerebbero un euro per lo Stato, no. E quella potrebbe essere la soluzione. Mi faccia innanzitutto rispondere all'obiezione di costituzionalità. Sì. Noi stiamo parlando di rafforzare l'autonomia organizzativa delle scuole, non abbiamo detto che le scuole potranno scegliere chiunque. Dentro il sistema di regole già e di diritti già riconosciuti dallo Stato, e potranno scegliere, però. Potranno selezionare. Soprattutto a livello di reti di scuole, guardie, non è molto lontano da quello che già le migliori direzioni regionali fanno, ma siccome da noi le innovazioni di oggi sono la tradizione di domani e si sa che la Lombardia è un laboratorio in tutti i settori, in particolare nel settore dell'educazione, mi riferisco anche all'istruzione e formazione professionale che ci ha consentito di abbattere la dispersione scolastica aggiungendo un canale in più all'offerta statale, quindi noi siamo convinti che bisogna cercare le soluzioni migliori, peraltro senza inventare nulla, perché sono quelle europee dei paesi che vantano la migliore tradizione. Senta, invece la questione non c'è da appunto invocare l'incostituzionalità. Questo era però una bandiera leghista ecco, su questo mi piace, guardi, io sono stata responsabile scuola ieri di Forza Italia, fino a qualche anno fa anche del PDL. Questa è una battaglia nostra, mia, che da responsabile scuola ho chiesto al partito e ovviamente... No, però i leghisti l'avevano dipinta, l'avevano dire insegnanti, diciamo, veneti in Veneto, ecco, no, Lombardi in Lombardia. Era una declinazione di una declinazione. Richiesta che noi facevamo e che facciamo e in cui crediamo, di responsabilizzare le scuole anche e soprattutto rispetto all'utilizzo di personale però selezionato a livello nazionale, perché anche la riforma che ha introdotto il ministro Gelmini parla di formazione iniziale dei docenti a livello nazionale. Sì. Noi poi aggiungiamo albi regionali e chiamata da parte delle reti. Quindi epurata dagli aspetti, se vuole, ideologici, leghisti, ecco, secondo lei non è sbagliata? La Lega, ma è vero, la Lega aggiungeva invece in più nel passaggio dalla idoneità nazionale all'idoneità regionale un test di tipo regionale, quel passaggio era che non va bene, però il principio secondo lei non è sbagliato, cioè il principio ma non... No, dipende però, perché guardi, su questo la mia legge si era fermata, perché se per me un'idoneità nazionale vale il diritto ad entrare ovviamente in un albo regionale con dei vincoli, vincoli di permanenza, quindi per 5 anni il docente abilitato anche a Napoli piuttosto che a Catania e se vuole inserirsi nell'albo regionale di Lombardia non si può togliere, così rimane almeno per 5 anni vincolato Faccia sentire Giuseppina da Modena che ci ha chiamato all'800 24 0024. Giuseppina, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Allora, io penso che potrebbe essere una soluzione soprattutto per poter dare ai ragazzi non solo delle elementari ma anche delle medie e quindi anche alle superiori una continuità didattica che spesso viene a mancare, perché o durante l'anno parecchie volte si ha un turnover di professori. E la risposta al turnover è questo, cioè le scuole possano scegliere all'interno di alcuni criteri a livello magari regionale degli insegnanti che si legano secondo un po' di più al percorso didattico. Sì, secondo me sì, insomma, in maniera tale da rendere stabile e rendere sicuri i ragazzi anche. Sì. Quindi penso che la conoscenza o di direttori didattici o dei presidi possa agevolare questo. Grazie Giuseppina. Francesca Puglisi, nel replicare a questo, però le chiedo, torno sulla questione di Trento. È vero che l'assessore Dalmaso, provincia di Trento, aveva sposato questa linea, dire non è sbagliata l'idea della Lombardia? No, l'assessore Dalmaso ha smentito queste voci in una conferenza stampa. A parte che forse l'avete fermata in tempo, no? No, no, noi abbiamo, siccome è da lungo tempo che discutiamo di scuola per preparare un programma alternativo, ovviamente quando torneremo al governo, abbiamo votato democraticamente all'Assemblea Nazionale di Varese il nostro no alla chiamata diretta, non è un no ideologico. A proposito di salvaguardia della qualità della scuola, voglio portare un ulteriore esempio per cui il sistema di chiamata diretta è profondamente sbagliato. In Italia si fa già nelle scuole private la chiamata diretta e si fa già nelle scuole paritarie. Sì. E i test Invalsi e OCSE Pisa dimostrano che le scuole statali, dove questo sistema di chiamata diretta non c'è, hanno livelli di apprendimento ben superiori. Quindi, hanno anche problemi però effettivamente di coprire i posti. Cioè, rispetto alle scuole private, no? Di docenti che si spostano, di burocrazia che interviene, per questo sì. Questo, la stabilizzazione. Noi siamo stabilizzazione, ma soprattutto basta superare un ulteriore problema, che è quello dell'assegnazione provvisoria nel momento in cui vengono assunti il ruolo. Noi abbiamo votato insieme all'ex maggioranza PDL Lega, abbiamo votato la stabilità di 5 anni nel momento in cui gli insegnanti vengono assunti in ruolo, ossia la richiesta che questi insegnanti assunti in ruolo siano fermi in quella provincia, peraltro noi crederemo che fossero fermi nella scuola per almeno 5 anni, proprio per garantire la continuità didattica, che condividiamo sia gran parte della qualità della scuola. Basta intervenire non in modo ideologico, ma ragionando sui problemi, ed è questo che chiediamo di fare anche alla Regione Lombardia, per garantire l'unità del nostro Stato, come chiede di fare appunto la Costituzione attraverso la scuola. Allora, intanto staremo a vedere come va a finire questa vicenda della legge regionale. Ringrazio l'assessore all'istruzione della Regione Lombardia Valentina Aprea e Francesca Puglisi, che è responsabile nazionale scuola del Partito Democratico. Noi ci troviamo domani mattina. Un parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, a tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari fanno 3 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco ad prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Pirelli, la potenza è nulla senza controllo.